me, spinto nella iniqua stagione, infermo il piede, tra il fango e tra l'obliqua furia dei carri, la città girve. Occhi vermigli, mi prepara al peggio, tribuna apocalittico seduto sul gran seggio, la natura guarda con occhi di plagia, far cadere l'uomo nell'eterna gabbia. Occhi vermigli, mi prepara al peggio, tribuna apocalittico seduto sul gran seggio, la natura guarda con occhi di plagia, far cadere l'uomo nell'eterna gabbia. Una carneficina, ogni cosa finita, la sbornia è smaltita, niente è come prima. Mi ritrovo come una ginestra leopardiana, suono un Carmine a Burana, la stamina è malsana. Indietreggio, in savana mi rifugio, nel mio intelletto vedo il sotterfugio. Niente sfugge all'occhio analitico, nulla protetto da un tetto antipanico, antifrastico. Concetto che dallo stomaco risale, fa male e ritorna in bilico nel ciclo cosmico. Ed io una ginestra, solo con un deserto che si manifesta, arido ed io pavido, resta a guardarlo. Non si confessa, ma resta nel manto tarlo, dell'aridità, della malvagità, indifferente natura, spura giura eternità. Occhi vermigli, mi prepara al peggio, tribuna apocalittico seduto sul gran seggio, la natura guarda con occhi di plagia, far cadere l'uomo nell'eterna gabbia. Occhi vermigli, mi prepara al peggio, tribuna apocalittico seduto sul gran seggio, la natura guarda con occhi di plagia, far cadere l'uomo nell'eterna gabbia. Il viaggio continua, coi palmi consumati, tra diavoli con tanto di bersagli abbinati, trasandati attaccati dalla paura e il dubbio, oscurando un cielo che era blu come il Danubio. Un armadio pieno di scheletri a mille ante, gente arrogante per vita natural durante, poiché non lo tocca l'ingranaggio si sblocca, dato che sei indirizzato nella strada che imbocca. Per lui sei un ostacolo errato tipo calcolo, cupo come un lupo che invade il suo pascolo. La strada deteriora, la gente lo ignora, vuole che cerchi l'aurora? No signora! Si scavano fossati, i civili sono armati, attaccati dai nemici che vi siete procurati. Avete fatto di tutto per poter possedere ciò che in fin dei conti non potete manco vedere. Occhi vermigli, mi prepara al peggio, tribuna apocalittico seduto sul gran seggio, la natura guarda con occhi di plagia, far cadere l'uomo nell'eterna gabbia. Occhi vermigli, mi prepara al peggio, tribuna apocalittico seduto sul gran seggio, la natura guarda con occhi di plagia, far cadere l'uomo nell'eterna gabbia. Uomini in cancrena, pare un coma irreversibile, la lancia si sverena, radio una zona incolmabile, il sole rassereno, il male tuono ormai instabile, il globo in toto trema, sale l'egonia imprescindibile. Animo conservatore, tra chi vuole fare il superiore, si blocca sta ascensore, si resta al piano inferiore, pensieri di un domani e ricordi di ieri, ricordando che la vita non fa prigionieri. Ziggurat domina la carica celeste, Proserpina nomina afrodisiaca la peste, Shangri-La semina, mastica le teste, la furia eccita lussuria e mesta. Oggi un dono è per questo che si chiama presente, ma c'è gente che non lo capisce per niente. Lavoro senziente, sorriso accondiscendente, ma la lingua che batte sul dente è la più tagliente. Occhi vermigli, mi prepara al peggio, tribuna apocalittico seduto sul gran seggio, la natura guarda con occhi di plagia, far cadere l'uomo nell'eterna gabbia. Occhi vermigli, mi prepara al peggio, tribuna apocalittico seduto sul gran seggio, la natura guarda con occhi di plagia, far cadere l'uomo nell'eterna gabbia.